Anche stamattina ci mettiamo alla scuola della parola di Dio, ancora Coelet, capitolo 4, versetto 17. Io mi sono soffermato su una sola frase, perché mi ha dato pascolo per la mia fede. Ed è la prima: bada ai tuoi passi quando ti rechi alla casa di Dio. Avvicinati per ascoltare, piuttosto che offrire sacrifici, come fanno gli stolti. Caspita, qui dà dello stolto a gente che va in chiesa a pregare, a offrire la sua preghiera, i propri sacrifici, e non vanno ad ascoltare. Mi ha fatto molto riflettere questo, perché generalmente sia io che il popolo cristiano andiamo in chiesa per parlare a Dio. Tant'è vero che non siamo contenti se non abbiamo detto quelle certe preghiere. Ho visto persone sante, peraltro, no? Che avevano dei libri di preghiera pieni di immaginette e non erano contente se non avevano detto è l'una e l'altra e l'altra è per il nipote, per i defunti e per questo e per quest'altro. E qui mi dice: avvicinati per ascoltare piuttosto che per offrire sacrifici. E mi è venuto in mente l'invito fondamentale per l'ebreo, non so se lo ricordate: ascolta Israele, tuo padre era un arameo errante. Ascolta Israele, ascolta cristiano. Noi siamo uditori, ascoltatori della parola e non invece mulini di preghiere. Dovremmo riflettere, cari amici, perché davanti al Signore non dobbiamo andare a presentare le nostre richieste, dopo forse, ma prima è un ascoltatore. Maria ha ascoltato, ha detto: sono la serva del Signore. Ma se noi guardiamo nella Bibbia, tutte le persone sono ascoltatori. Sono persone che si mettono di fronte al Signore: parla Signore, il tuo servo ti ascolta, dice Samuele. Ma sarebbe interessante, amici, percorrere la parola di Dio. Che cosa ne deriva per la nostra esistenza? Ne deriva che dobbiamo diventare prima persone di silenzio, persone che ascoltano. Noi siamo abituati a dire il Santo Rosario prima della Santa Messa, ma io ho chiesto a chi lo recita di cominciare anche 10 minuti prima, per lasciare prima della Santa Messa almeno 10 minuti di silenzio. Non arrivare ingozzati, veloci, perché non ci stiamo dentro e comincia la messa, lei accelera, corri. No, abbiamo bisogno di stare in chiesa davanti al Signore in silenzio a guardarlo. Allora mi permetto di suggerirvi questo: sia quando veniamo in chiesa per la celebrazione comunitaria, sia quando, speriamo, veniamo in chiesa per una nostra visita personale al Signore, entriamo in questo atteggiamento di ascolto. Io alcune volte mi metto anche davanti al tabernacolo o davanti all'immagine anche della Madonna e non dico niente, faccio silenzio. Vedo quali pensieri affiorano nella mia mente. Ecco, dobbiamo imparare, a mio parere, proprio a fare silenzio, a diventare persone che ascoltano. Al massimo, prendere il messalino, aprirlo, leggere la parola di Dio. Il ritornello del Salmo di oggi diceva: Dio ha ascoltato la voce della mia preghiera. Io ho pregato, ma pensa, il Signore ascolta. Il Signore mi insegna come devo fare. Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio. Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta.